antidoto e mutante, al giorno sopravvivo, io sono benestante. A 40 anni non ha più un lavoro, ma sempre una famiglia, il suo solo tesoro. Vecchio per dargli un'altra occasione, giovane per godere di una bella pensione. Come voi inchiodati alle poltrone, che fate scarabocchi sulla Costituzione. Capiranno che non è più giorno. Fatti taglia i bottieri, spegnere il fuoco, quando capiranno che non è più gioco. Marzano scende in piazza ad appare, guarda uomini e donne, sa che ce la può fare. Fissa il suo smartphone, il suo passepartout, le foto le ha inviate, Gesù pensaci. E dalla porta accanto c'è chi gioca, chiuso nella sua stanza, la nonna come cuoca. Va tutto bene, non gli manca niente, è tutto virtuale, niente più interessante. Capiranno